verso il voto. Un saluto agli ascoltatori di Radio 24 e benvenuti al punto politico della giornata. In apertura il tour elettorale del candidato premier del Partito Democratico. In Piemonte Veltroni ha parlato dei costi della politica ed ha puntato il dito sulle divisioni, a suo dire, all'interno del Popolo della Libertà. Alessandra Schepisi. Dalle pensioni alla politica estera, l'Alitalia, la destra è divisa su tutto. Veltroni va all'attacco e accusa il Popolo della Libertà di essere pieno di contraddizioni. Prendete il caso Alitalia. Fini ha detto sì Air France, Bossi ha detto di no. Cosa avrebbero fatto se fossero stati al governo insieme? Prendete il caso delle pensioni. Berlusconi l'altro giorno ha detto ma noi dobbiamo ritornare alla legge Maroni, quindi rifare tutta la procedura, ignorando il fatto che hanno votato 5 milioni di lavoratori in un referendum, che hanno preso delle scelte, e gli hanno detto tutti i suoi alleati, gli hanno detto di no, a cominciare da Maroni, poi ha detto no, non è il caso, non riapriamo questa questione. Dal Piemonte, regione decisiva per le sorti delle elezioni, Veltroni affronta anche il tema dei costi della politica, denunciando la sproporzione tra i trattamenti economici dei parlamentari italiani rispetto ai loro colleghi europei. Io penso che si debba lavorare, e lo proporremo in Parlamento, a unificare il livello delle retribuzioni e dei servizi dei parlamentari italiani a quelli degli altri paesi europei. Lo dico veramente non animato da nessuna tentazione di indulgere all'antipolitica, ma esattamente il contrario. Il leader del PD riserva anche una stoccata alla sinistra arcobaleno. Divento pazzo a sentirli parlare ancora di lotta di classe contro i padroni. Ma oggi noi siamo liberi e prendiamo le distanze dallo slogan anche i ricchi piangono. Noi non siamo contro la ricchezza, dice Veltroni, ma contro la povertà. Ma c'è spazio anche per la politica estera. La Cina rispetti i diritti umani, ammonisce il leader del Partito Democratico, che faccia di tutto per far cessare le violenze. Costi della politica, pensioni e critiche al PDL, dunque i temi affrontati da Veltroni. E proprio da questi parte la replica del Popolo della Libertà. Veltroni guardi in casa sua, dice Vito di Forza Italia, che accusa tra l'altro il leader del PD di copiare il programma del centrodestra, così al TG3. Da quale pulpito viene la predica? Veltroni parla di contraddizioni senza guardare quelle che ci sono in casa sua. Ha candidato il giustizialista Di Pietro e i radicali garantisti, gli stessi radicali e i cattocomunisti. Nel nostro schieramento invece ci sono dei valori e un programma comune. Altro tema, quello previdenziale. So bene che i sistemi pensionistici non si cambiano da un anno all'altro, tantomeno senza una consultazione sociale, ha garantito Berlusconi, mentre lo stesso Maroni, da cui prende il nome la recente riforma, spiega non ci devono essere modifiche almeno per i prossimi 5 anni. Critiche a Veltroni anche sulla politica estera. Franco Frattini, probabile prossimo inquilino della Farnesina, parla di Medio Oriente e spiega: parlare di trattativa con Hamas è stato a mio avviso un grave errore, e qui io vedo una contraddizione, mi permetto di dirlo, tra la posizione del ministro degli esteri, che queste tesi ha sostenuto, e il silenzio dell'onorevole Veltroni. Io avrei grande interesse ad una presa di posizione forte politica del leader del Partito Democratico sul fatto che l'azione di politica estera dell'Italia includa o non includa l'apertura a trattare con Hamas. Tema brogli elettorali, poi. Diversi gli esponenti del Popolo della Libertà che lanciano l'allarme, così Alemanno ai microfoni Rai. Beh, questa volta si vota in molte parti d'Italia con 5 schede, quindi bisogna stare molto attenti, gli elettori non devono sbagliare e la macchina amministrativa deve essere molto allertata. In tanti casi nel passato ci sono stati brogli significativi e bisogna evitare. Ma veniamo alle altre forze politiche che animano questa campagna elettorale. Casini critica l'informazione blindata PD-PDL e attacca Berlusconi che, sulle pensioni, secondo l'esponente dell'Unione di Centro, ha contraddetto se stesso. Non c'è annuncio di Berlusconi che il giorno dopo non venga smentito, non dagli altri, da Berlusconi. Se questa è la premessa del buon governo, in bocca al lupo a tutti. Cioè è lui che ha parlato di pensione, è lui che ha parlato di scalone, è lui che il giorno dopo smentisce il Berlusconi del giorno prima. Di una possibile intesa Partito Democratico Popolo della Libertà parla anche la sinistra arcobaleno, un'ipotesi da scongiurare, dice Giordano di Rifondazione. Solo se sarà una sinistra arcobaleno molto forte il Partito Democratico può sciogliere le proprie contraddizioni e avere un orientamento più a sinistra. Solo se avrà un forte consenso a sinistra dell'arcobaleno si potrà avere in prospettiva una ripresa di confronto col Partito Democratico. Infine Storace, non permetteremo a Berlusconi di fare l'inciucio con Veltroni, dice l'esponente della destra. Verso il voto termina qui, un saluto da Vincenzo Miglietta.